la goccia eterna della vita, dove si trova la realtà, nell'acqua che fonde l'amor, che l'uomo dice c'è vita già. Per l'uomo quella goccia che dice sia vita è giusto che faccia tesoro anche del grembo, perché lo stesso in una vita c'è. Sai cosa sarà? Ricorda che nessuno lo sa, e niente vale quando il tuo cuore, unito ad un bimbo chiamato sei tu.